probabilmente migliorato anche la nostra relazione con voi che pazientemente continuate ad ascoltarci in rete, oppure dall'Italia, oppure col mezzo tradizionale, quello strumento straordinario che è la radio, che continua a rinnovarsi rispetto a tutte le tecnologie. Ne approfitto per salutare anche tutti gli italiani che sono a Bruxelles, in Belgio, gli italiani d'Italia e gli italiani che per un motivo o per un altro, quelli che come noi pure hanno ricostruito le proprie vite altrove, a Bruxelles, Parigi, Londra, Barcellona, Dublino, Oslo, Stoccolma, Ankara, Podgorica, Skopje. Beh, saluto tutti quegli amici che sono andati proprio in queste città. Saluto chi invece è partito prima di noi, chi è partito, immaginate, in nave, con una valigia di cartone, che è andato al di là pure degli oceani, e che quindi proprio a causa di quelle distanze non riesce poi a ritornare così spesso, come invece possiamo fare noi. Quindi saluto anche tutti gli italiani che sono nelle Americhe, nell'America del Nord, nell'America Centrale, in America Meridionale. E quelli che sono invece in Asia, che guardano le nuove opportunità, che guardano dall'altro lato, che guardano verso il Pacifico, e magari tutti quelli che stanno andando proprio in Australia di questi tempi, perché pare che lì si trovi ancora un lavoro decentemente pagato. E allora, poiché è l'ultima puntata di Bruxellando, lasciatemi esprimere un desiderio, giacché ci sono notti in cui tutto è possibile, probabilmente il 30 di dicembre è una di quelle. Io auguro davvero che tutti coloro i quali abbiano un sogno continuino a coltivarlo, continuino a crederci profondamente, perché nonostante tutto abbiamo bisogno di sogni, abbiamo bisogno di un momento in cui ritrovarci, e probabilmente questo può essere quello strumento, quindi il sogno, che ci permette di riscoprirci anche bambini per guardare avanti. Siccome il Bruxellando ha cominciato questo viaggio tanto tempo fa e continua, tra una parola ed un suono, tra un suono e un'immagine, tra una riflessione e una risata, tra un sorriso e una comprensione, perché la sintesi poi di tutte queste cose si manifesta anche nell'apertura e quindi nella comprensione verso l'altro. Auguro veramente a tutti, a tutte, alle amiche, agli amici, agli artisti che rendono protagonista Bruxellando un'ottima fine, come si direbbe dalle mie parti, e un buon inizio. E spero davvero che il 2015 possa portare a tutti voi che siete all'ascolto tutto ciò che desiderate, che ancora non siete riusciti per un modo o per un altro a realizzare. Ma soprattutto ci sono tre parole che un mio amico diceva sempre, e all'epoca ero molto giovane, non le capivo pienamente, eppure lui diceva tre cose. Nella vita bisogna avere tanta salute, prosperità, che per lui poi significava tante cose, soprattutto riuscire a mangiare bene, ed infine felicità, che era una parola che all'epoca mi sembrava anche un po' abusata. Invece sono proprio queste tre parole che voglio indirizzare a voi, quindi con tanta felicità, tanta prosperità e soprattutto tanta salute, affinché questo 2015 sia davvero ricco di gioia e anche di soddisfazione, soprattutto per quegli ambienti come il nostro, dove pare che siamo sempre eternamente in corsa. Quindi buon anno, buon 2015 agli ascoltatori di Radio Alma, agli ascoltatori di Bruxellando, agli artisti di Bruxellando. Ancora auguri. Maridì, Radio Alma, Bruxellando.